Euroreportage. Bomba Covid sul lavoro, 60 milioni a rischio, di Livia Zancaner. It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession. È abbastanza chiaro che siamo entrati nella recessione economica più profonda nella storia europea, così ha dichiarato il commissario europeo agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, illustrando gli effetti dell'emergenza sanitaria e del lockdown sull'economia. La Commissione europea stima infatti per il 2020 un calo del prodotto interno lordo del 7,4% per l'Unione, 9 punti in meno rispetto alle previsioni d'autunno. Paesi più penalizzati: Grecia, Italia con un PIL a meno 9,5% e Spagna, quelli cioè con un'alta percentuale di contratti a tempo determinato e di forza lavoro dipendente dal turismo. Unemployment is set to increase. La disoccupazione salirà e la pandemia avrà un grave impatto sul mercato del lavoro, ha spiegato Gentiloni. Il tasso di disoccupazione aumenterà dal 6,7% del 2019 al 9% nel 2020. In Italia si attesterà all'11,8%. Secondo la Confederazione Europea dei Sindacati, dai primi di marzo a oggi circa 60 milioni di persone in Europa, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro o usufruito di forme di sostegno al reddito, quasi tre volte i disoccupati generati dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Il segretario generale CES, Luca Visentini. Abbiamo circa 42-43 milioni di persone che hanno avuto accesso a forme di sostegno al reddito, quindi cassa integrazione, Kurzarbeit tedesco e altre forme di bonus, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi forma, diciamo, di sostegno al reddito che previene la disoccupazione, quindi sospensione con compensazione del salario o del reddito. A questi si aggiungono almeno 10-15 milioni di persone che invece sono state proprio licenziate e che quindi sono in una situazione di disoccupazione permanente. All'inizio del lockdown l'ILO e anche altri istituti dicevano che si sarebbe arrivati intorno ai 60 milioni ed effettivamente siamo molto vicini ai 60 milioni. E a questo si deve aggiungere però poi tutti quelli che stavano in lavoro in nero oppure lavoratori precari o altre forme di lavoro atipico, inclusi migranti, stagionali, eccetera, che non sono accessibili perché non hanno accesso né alla disoccupazione ordinaria né al forno di sostegno al reddito. E questi sono difficilmente quantificabili, anche perché la situazione di queste persone varia da paese a paese. In alcuni paesi hanno diritto a ricevere alcuni sussidi, in altri paesi non hanno diritto a niente, quindi è molto difficile, diciamo, quantificarli. Però sicuramente abbiamo tra i 40 e i 45 milioni di persone che hanno sostegno al reddito e tra i 10 e i 15 milioni di persone che sono finite in disoccupazione permanente. Questo porta, diciamo, il totale di queste persone a quasi tre volte i disoccupati che si sono creati durante la crisi finanziaria, che è durata anni, mentre invece qui la cosa è successa in pochi mesi. Quindi, diciamo, è abbastanza scioccante come effetto, diciamo. È chiaro che la speranza è che coloro che stanno usufruendo forme di sostegno al reddito possano rientrare a lavorare una volta che il lockdown sarà finito e che quindi poi alla fine si ritorni, diciamo, su un livello un po' più, diciamo, sostenibile di disoccupazione rispetto a quello che si sta vedendo adesso. Però questo dipenderà moltissimo ovviamente dalle misure per la ripresa economica, eccetera, eccetera. Il piano per la ripresa, presentato a fine maggio dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Next Generation EU, worth 750 prevede 750 miliardi per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus, 500 miliardi a fondo perduto, 250 miliardi di prestiti legati alla realizzazione di riforme. All'Italia la fetta più grande, 173 miliardi. Il fondo si aggiungerà ai 1.100 miliardi di bilancio pluriennale dell'Unione, più i 540 miliardi delle misure già approvate, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità per le spese sanitarie, i finanziamenti per le piccole e medie imprese della Banca Europea degli Investimenti e il Fondo SURE da 100 miliardi per la cassa integrazione, oltre ovviamente all'intervento della BCE. Positive, secondo Visentini, tutte le misure messe in campo, ma i paesi tardano a rispondere. Il rischio è che chi ha un sostegno al reddito, se non lo riceve, diventerà disoccupato e le imprese chiuderanno. Da questo punto di vista noi siamo soddisfatti. C'è un però, che è il fatto che ci sono due però, direi. Uno è il fatto che ovviamente questa è la proposta della Commissione, bisogna vedere se i paesi membri, in particolare i cosiddetti frugali o tirchi, come qualcuno li chiama ormai, accetteranno questo piano, se invece ci sarà, come spesso accade e come è accaduto anche per le misure di emergenza, una discussione infinita per mesi e mesi senza che si arrivi ad una soluzione decente. Quindi diciamo l'elemento politico giocherà un ruolo molto importante, quindi si tratterà di capire se sarà la capacità dei governi di essere all'altezza della situazione, di prendersi la responsabilità, insomma, di trovare una soluzione adeguata. E l'altro problema è che purtroppo noi abbiamo visto che sulle misure di emergenza, che sono arrivate un po' tardi, anzi parecchio tardi, ma che comunque sono positive, diciamo, nella loro modalità, il problema è che però i soldi ancora non arrivano. Noi vediamo in moltissimi paesi, soprattutto le piccole e medie imprese non hanno ricevuto niente, le banche che hanno ricevuto montagne di soldi dalla Banca Centrale Europea non stanno aprendo linee di credito nei confronti delle economie e delle famiglie, e moltissimi lavoratori e lavoratrici che stanno in condizioni di sospensione dal lavoro e di sostegno al reddito non hanno ricevuto i benefici. Per quanto riguarda l'Italia, importante la disponibilità di fondi per salvaguardare le imprese, per lo più di piccole dimensioni e quindi più vulnerabili, sottolinea il direttore del Dipartimento Produzione Statistica dell'Istat, Roberto Monducci. Sicuramente diciamo che è fondamentale avere disponibilità di liquidità. Tra l'altro noi come ISTA stiamo facendo molte simulazioni sulle condizioni di liquidità delle imprese per valutare i profili di rischio delle imprese italiane. Quindi un tema fondamentale nello scenario che si è configurato è quello della disponibilità di fondi per evitare che imprese anche sane, imprese che hanno un business, che hanno un mercato, che magari hanno fatto investimenti, siano assolutamente spazzate via da questa situazione. Quindi è decisivo, direi, il fatto di disporre di una maggiore gamma di strumenti possibili in grado di intercettare, tra l'altro, le esigenze di un sistema come quello italiano, che è particolare in Europa. Il sistema italiano è caratterizzato da un numero veramente notevole di imprese di piccolissime dimensioni, abbiamo 4.400.000 imprese, un numero molto superiore a quello degli altri paesi europei. Questo aumenta, diciamo, l'incidenza dei costi fissi sul totale dell'economia e la vulnerabilità delle imprese in presenza di situazioni di questo tipo. Quindi questi aiuti saranno particolarmente importanti per un paese come l'Italia, data la frammentazione del tessuto produttivo. L'Istat parla per l'economia italiana di uno shock senza precedenti, con una caduta del PIL dell'8,3% nel 2020 e una parziale ripresa nel 2021. Aprile, secondo mese di lockdown, ha mostrato un calo degli occupati, un aumento degli inattivi, chi non ha un lavoro e non lo cerca, e una discesa dei disoccupati a causa delle scarse opportunità conseguenti al blocco delle attività produttive. Tra i settori più colpiti in Europa e in Italia, ristorazione e turismo, manifattura, vendita al dettaglio, costruzioni, arte, intrattenimento e l'auto. Comparto quest'ultimo che sta attraversando la crisi peggiore. Ad aprile le matricolazioni nell'Unione Europea sono scese del 76%, a maggio di oltre il 50%. Sentiamo Gianmarco Giorda, direttore ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. La situazione nel settore automotive in Europa e nello specifico in Italia è veramente, veramente difficile. A marzo-aprile sostanzialmente il mercato si è azzerato, a maggio una timida ripresa, però stiamo parlando di un meno 50 in Italia rispetto a maggio 2019, ma quello che fa più preoccupare sono gli ordinativi, che a maggio sono ancora molto molto inferiori rispetto a maggio dell'anno scorso, per cui una domanda che langue, e questo ha provocato ovviamente una ripercussione anche sulla parte produttiva. Ormai le nostre aziende in Italia, sia i produttori di auto che di componenti, hanno aperto, però stanno lavorando a capacità ridotta, in media un 50-60% della capacità produttiva, con un larghissimo ricorso alla cassa integrazione. Se appunto la domanda stenterà a risollevarsi nei prossimi mesi, sicuramente diventa alto il rischio per molte aziende di chiudere per fallimento oppure di assistere a grosse ristrutturazioni, chiaramente anche su larga scala. Che misure servirebbero per risollevare il settore? La Francia e la Germania sono partite per prima con due piani veramente ben congeniati, perché da un lato aiutano a risollevare la domanda e il mercato, dall'altra a medio-lungo termine hanno adottato e previsto tutta una serie di strumenti per gestire in maniera proattiva la transizione delle aziende del settore dell'auto verso le nuove tecnologie, guida autonoma, elettrificazione, digitalizzazione. Questo è di quanto avrebbe bisogno anche l'Italia, per cui c'è da intervenire sulla ricerca e sviluppo, sull'innovazione, sulla partecipazione da parte anche dello Stato nei grandi progetti europei sulla guida autonoma, l'auto elettrica, l'idrogeno, mettere in piedi anche degli strumenti per aiutare la crescita dimensionale delle aziende e l'aggregazione di più aziende. Ecco, questi sono quei 4-5 interventi a medio-lungo termine che dal nostro punto di vista sono necessari per mantenere, diciamo, la filiera ancora competitiva nei prossimi anni. E lo scenario è davvero complicato. Con l'arresto di tutta la produzione, la chiusura della rete di vendita, sono in gioco 13,8 milioni di posti di lavoro in Europa. L'allarme lanciato a inizio lockdown da Eric Marcheutema, direttore generale dell'ACEA, Associazione dei Costruttori Europei. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.